Friuli nel mondo. 68esima trasmissione dedicata agli emigrati. Friuli Canoro. Più di 3.000 le villotte friulane che sono il patrimonio canoro di questa terra, ricca sempre di poetico estro e gelosa custode di gentili tradizioni. La villotta è lo specchio dell'anima friulana e la musica e le parole sono fedeli espressioni della serenità del nostro popolo. Il coro di San Lorenzo di Sedegliano vuole oggi, cari amici lontani, farvi ascoltare tre gruppi di villotte precedute dalla brillante e chiara dizione friulana di Ottavio Valerio. Il primo gruppo comprende tre componimenti d'autore in cui i nostri poeti e musicisti hanno mantenuto inalterata la limpida vena popolare nella rigida forma dell'antica villotta. In O torni ninine, il Don de Viole e Plank Plankin sono espressi i più vari sentimenti con viva purezza di immagini. O timps che sozzere dall'aier quartat, vinive a noi il chian dei seseladors, che il chian di ligrie dell'om soddisfat, col sper in se stes e al sfide i dolors. Cumo a miege vos di sere matine, si sint la vilote che quarte via il cur, e l'eco si piar lontan peculine. O torni, ninine, ma ben se no mur. Thank you. queste gentil viole, primizie de stagion, l'hai destinata in don ninute al Tobielsen. Quand che in cil ci mi in listelis, viel chiatasi ca besoi. Tu sod vos tu mi fevelis, io ti chiali fista i voi. E ti scolti, angelis fueis e murmuin talaiaru. Plan, planchin, che non tu sveis za calduar, quest mon tant brut. Plan, planchin, vaiu la lune, che la gnot nu sa veglar. Come mari sulla scune, nizulant un fi malato. Chiante gli alt, la lodulute zorne in alt, al torne di, siare voi me biele frute, plan, planchin, balà dormi. In queste tre antiche villotte, nate anonime dal cuore del popolo, dal titolo «Vegnen iu i ciarniei di ciarnie, e memari meladite, e giovanin color di rose», vengono sottolineati particolari aspetti e momenti dell'anima popolare. «Giovanin color di rose, le passat par chi cumò». Lui mi ha detto «Mandi morose!» Io gli ho detto «Ma la fenò!» E me mari maladite, ma la fate professà, che se ho il marito in ciarnie, o hai la cosse di quartà. Venin iu i ciarniei di ciarnie, venin iu battinti il tac, cu la pipe in te sacchete, cence un fregul di tabacco. Color di rose, Vogliate infine ascoltare questi tre magnifici componimenti popolari carnici. La biele son pladine, quan colevi supaval cialda, e sulla plui alte cime, sono antiche villotte piene di grazia, di serenità e di poesia. La biele son pladine arrischielava il fen, e intanto che lo voltava, chiantava così ben. Finin, finin li svoris, finin di rischielà, li sprucisions a passin, anin li satialà. La biele son pladine con tante presunzion, e a gioi un vieli e gobo, cagliere un po' di bon. Quant colavi su paval chialda, culla strezza par d'avou, mi clamavin, svalda, svalda, speranzona dal mio cuor. Sulla plui alte cime, allieve il soreli a buinore, ma queste noi è l'ore di abbandonare l'amore. Siamo certi, cari amici lontani, di avere con questi canti riportato per un momento nel vostro cuore il cocente nostalgico ricordo del vostro Friuli. abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. 68esima trasmissione a cura di Ermete Pellizzari. Coro di San Lorenzo di Sedegliano, diretto dal maestro Leandro Plenizio. Dizione di Ottavio Valerio.